Capitolo 27. Messaggi di solidarietà. Fu Nancy a dover informare John Pendleton del responso dello specialista. La signorina Polly non aveva dimenticato la sua promessa, ma ritenne che non fosse il caso né di recarsi lei di persona né di scrivergli una lettera. Pensò quindi di mandare Nancy. Solo qualche tempo prima Nancy sarebbe stata felice dell'eccezionale occasione di mettere piede nella casa del mistero e di vedere da vicino il suo proprietario, ma quel giorno si sentiva troppo triste per potersi rallegrare di qualcosa e non si guardò nemmeno intorno durante i pochi istanti che rimasero in attesa del signor Pendleton. «Io sono Nancy, signore», disse rispettosamente in risposta allo sguardo interrogativo che Pendleton le rivolse quando entrò nella stanza. «La signorina Harrington mi ha mandata dalle notizie di Pollyanna. Allora?» Nancy non mancò di notare la tensione che si nascondeva dietro quell'unica parola. «Non sono buone, signor Pendleton», disse con un filo di voce. «Vuoi forse dire...» Pendleton si interruppe e Nancy chinò il capo. «Sì, signore, il dottore ha detto che non potrà più camminare, mai più». Per qualche istante nella stanza ci fu assoluto silenzio. Infine Pendleton parlò con voce rotta dall'emozione. «Povera piccola, povera... Povera piccola!» Nancy gli lanciò un'occhiata, ma abbassò subito lo sguardo. Non si sarebbe mai aspettata che quell'uomo scorbutico, severo e scostante, tale era la fama di John Pendleton, potesse manifestare tanta sensibilità. Dopo qualche istante egli parlò di nuovo con un tono di voce ancora debole e insicuro. Naturalmente immagino che la bambina non sappia niente. «Lo sa, signore», rispose Nancy, come se stesse per scoppiare in lacrime, «e questo rende la situazione ancora più difficile. Pollyanna ha sentito, maledetto quel gatto! Chiedo scusa, signore», disse in fretta Nancy, «è stata tutta colpa del gatto che si è infilato nella stanza di Pollyanna e della porta che è rimasta aperta. E allora la piccola ha sentito quello che dicevano i dottori e la signorina Polly. È così che l'ha saputo». «Oh, povera, povera, povera bambina!» Sospirò ancora Pendleton. «Sì, signore, è uno strazio, se la vedesse», disse Nancy. «L'ho vista soltanto 2 volte da allora e tutte e 2 le volte sono rimasta sconvolta. La ferita è ancora così recente che continuo a pensare a tutte le cose che non potrà più fare adesso. Si tormenta anche perché ha paura di non riuscire più a essere contenta. Forse lei non sa del gioco», cercò di spiegare Nancy. «Il gioco della contentezza?» chiese Pendleton. «Oh, sì. Me ne ha parlato. Sì, l'aveva insegnato praticamente a tutti, ma vede, adesso non riesce a giocarlo e questo è ciò che la fa disperare. Continua a dire che non riesce a pensare a niente, proprio a niente che la faccia essere contenta di non poter più camminare». «E come potrebbe?» esclamò Pendleton quasi con rabbia. Nancy si mostrò un po' a disagio. «Anch'io la pensavo così, finché non mi è venuto in mente che per Pollyanna forse sarebbe più facile se almeno ci provasse. Così ho cercato di ricordarglielo». «Ricordarle che cosa?» John Pendleton era impaziente e iroso. «Ricordarle che ha insegnato agli altri a fare il gioco, alla signora Snow e a tanta altra gente, che ha spiegato a tutti come si faceva a giocare. Ma la povera bambina continua a piangere, protesta che non sa come, ma non è la stessa cosa. Dice che è facile suggerire a un invalido a vita come deve fare per essere contento, ma che non è la stessa cosa quando l'invalido a vita sei tu. Dice che continua a ripetersi di essere contenta, ma ogni volta che tenta non riesce a pensare ad altro, se non che non potrà più camminare». Nancy fece una pausa, ma Pendleton non disse nulla. Se ne stava seduto con una mano sugli occhi. «Poi ho cercato di ricordarle quello che diceva lei del gioco, e cioè quanto fosse molto più bello da giocare quando diventava difficile», continuò Nancy con un tono di voce inespressivo, «ma dice che anche in questo caso è diverso, quando cioè la situazione è veramente difficile. E adesso devo proprio andare, signore», disse Nancy tutto a un tratto. Quando fu sulla porta esitò, si voltò verso Pendleton e chiese timidamente: «Potrei dire a Pollyanna che lei ha visto Jimmy Bean ancora una volta?» «Non vedo come potresti, dal momento che non è vero», osservò Pendleton asciutto. «Perché me lo chiedi?» «Niente, signore, soltanto che, beh, vede, a Pollyanna dispiaceva di non poter venire con lui. Ha detto di averlo accompagnato una volta, ma crede che quel giorno non avesse fatto una buona impressione e temeva che non ne volesse più sapere di quella tale presenza. Forse lei capisce quel che voleva dire, io non l'ho capito, signore. Sì, ho capito quello che intendeva dire. Molto bene, signore. Era soltanto perché Pollyanna desiderava portarglielo ancora. Aveva detto, così da dimostrarle che sarebbe stato veramente quella tale presenza. E adesso non può più, maledetta automobile. Chiedo scusa, signore. Arrivederci. Nancy corse via. Non ci volle molto tempo perché tutta Buildingsville sapesse che il celebre specialista di New York aveva dichiarato che Pollyanna Whittier non sarebbe stata più in grado di camminare e mai come allora l'intera cittadina fu commossa. Non c'era persona che non conoscesse almeno di vista quel visetto allegro, pieno di lentiggini, che aveva sempre un sorriso per chiunque. Quasi tutti poi sapevano del gioco di Pollyanna ed erano rattristati al pensiero che non sarebbe più vista in giro quella bambina sorridente, che non si sarebbe più udita quella voce vivace che annunciava la contentezza. Sembrava una cosa incredibile, impossibile, assolutamente crudele. Sia che fossero in cucina, in salotto o nel retro della casa, molte donne ne parlavano e spesso si mettevano a piangere. E lo stesso facevano per strada, nei negozi, sul posto di lavoro. Anche gli uomini si commuovevano, anche se loro non apertamente. E tutti quei commenti non diminuirono quando, più veloce del vento, Nancy ebbe diffuso la pietosa storia che Pollyanna, di fronte a quello che le era capitato, si lamentava soprattutto del fatto che non riusciva più a fare il suo gioco, che cioè si tormentava perché non era più capace di essere contenta di ogni cosa. Fu allora che, quasi contemporaneamente, tutti gli amici di Pollyanna ebbero lo stesso pensiero e con grande sorpresa della signorina Polly cominciò ad arrivare a Harrington una visita dopo l'altra, persone che conosceva, persone che non conosceva, visite da parte di uomini, donne, bambini, tra cui anche molta gente che la signorina Polly non pensava minimamente che sua nipote potesse conoscere. Alcuni entravano e stavano seduti per 5-10 minuti, altri si fermavano impacciati sui gradini dell'ingresso, rigirandosi tra le mani il cappello o la borsetta a seconda del sesso. Qualcuno portava un libro, un mazzo di fiori o dei dolci. Alcuni piangevano senza ritegno. Altri si giravano da una parte per soffiarsi rumorosamente il naso, ma tutti, indistintamente, chiedevano con apprensione della piccola malata e tutti le mandavano a dire qualche cosa. Il primo ad arrivare fu John Pendleton che si presentò senza stampelle. «Non c'è bisogno che le dica quanto sono rimasto costernato», incominciò in modo quasi ruvido, «ma non c'è niente che si possa fare. Tentiamo il possibile, naturalmente». La signorina Polly fece un gesto di impotenza. «Il dottor Mead ha prescritto terapie e farmaci che possono essere d'aiuto e il dottor Warren segue attentamente le sue prescrizioni, certo, ma il dottor Mead non ha lasciato speranze». John Pendleton si alzò di scatto, anche se era appena arrivato, era pallido, aveva la bocca contratta. La signorina Polly, guardandolo, capiva molto bene il motivo per cui non potesse stare più a lungo in sua presenza. Quando fu sulla porta, il signor Pendleton si voltò. «Ho un messaggio per Pollyanna», disse. «Vuol dirle, per favore, che ho visto Jimmy Bean e che d'ora in poi starà con me? Le dica che ho pensato che sarebbe contenta di sapere che probabilmente lo adotterò». Per un attimo la signorina Polly perse l'abituale controllo di sé. «Vuol dire che adotterà Jimmy Bean?» disse quasi senza voce. Pendleton la guardò negli occhi. «Sì, penso che Pollyanna capirà, glielo dica. Ho pensato che sarebbe stata contenta». «Oh, ma certo!» farfugliò la signorina Polly. «Grazie», disse Pendleton accennando un inchino prima di andarsene. La signorina Polly restò in piedi in mezzo alla stanza, ancora colpita da quella notizia, come se stesse ancora guardando l'uomo che l'aveva appena lasciata. Faceva fatica a credere a quanto aveva appena udito. John Pendleton adottare Jimmy Bean? John Pendleton, ricco, indipendente e riservato, con la fama di essere un grande egoista? Adottare un bambino? E un simile bambino, poi. Con la stessa espressione di sorpresa ancora sul volto, la signorina Polly salì in camera di Pollyanna. «Pollyanna, ho un messaggio per te da parte del signor Pendleton. È appena stato qua. Mi ha detto di dirti che prenderà con sé Jimmy Bean. Ha detto anche che saresti stata contenta di saperlo». Il piccolo viso pensieroso di Pollyanna si illuminò d'improvvisa gioia. «Contenta? Contenta? E come se lo sono! Oh, zia Polly, ho tanto desiderato trovare una casa per Jimmy e quella è una casa così bella! E poi sono tanto contenta anche per il signor Pendleton, vedi, ora avrà quella presenza. Quella cosa? Pollyanna? Arrossì confusa. Aveva dimenticato di non aver mai detto alla zia del desiderio del signor Pendleton di adottarla e non voleva certo dirle ora che non aveva mai pensato per un solo minuto di lasciare la sua cara zia Polly. La presenza di un bambino, balbettò in fretta Pollyanna, vedi, il signor Pendleton mi ha detto una volta che soltanto il cuore e la mente di una donna o la presenza di un bambino possono creare una vera casa e adesso la presenza del bambino ce l'ha. Oh, capisco, disse la signora Polly con dolcezza. In realtà capiva molto più di quanto Pollyanna potesse immaginare. Pensò a quale pressione avesse dovuto sopportare la bambina quando John Pendleton le aveva chiesto di diventare quella presenza che avrebbe trasformato la sua casa di pietra grigia in una vera casa accogliente. Capisco, disse ancora questa volta con gli occhi pieni di lacrime. Per timore che la zia potesse fare altre imbarazzanti domande, Pollyanna si affrettò a dirottare la conversazione da un'altra parte. Anche il dottor Chilton lo dice, anche lui sostiene che ci vuole il cuore e la mente di una donna o la presenza di un bambino per fare una vera casa, disse con puntiglio. La signorina Polly si voltò di scatto. Il dottor Chilton? Come fai a saperlo? Me l'ha detto lui, è stato quando mi ha spiegato che la sua non era una casa ma solo un insieme di stanze. La signorina Polly non rispose. Lo sguardo perso oltre la finestra. Così gli ho chiesto perché non se li cercava il cuore e la mente di una donna e avere così una vera casa. Pollyanna! La signorina Polly si era voltata a guardare e la sua faccia mostrava una certa alterazione. Oh sì, l'ho fatto perché era tanto, tanto triste. E che cosa ti ha risposto? La signorina Polly fece quella domanda quasi controvoglia, come se dentro di lei ci fosse qualcosa che cercava di impedirglielo. Per un po' non mi ha risposto, poi mi ha detto molto piano che non era sufficiente chiedere per ottenere una cosa del genere. Ci fu un breve silenzio. La signorina Polly teneva ancora lo sguardo rivolto alla finestra. Il suo volto era stranamente alterato. Pollyanna sospirò. Ne desidera una comunque e vorrei tanto che la trovasse. Ma Pollyanna, come fai a saperlo? Perché dopo, un'altra volta, ha detto qualcos'altro, l'ha detto molto piano anche allora, ma io l'ho sentito lo stesso, ha detto che avrebbe dato qualunque cosa al mondo se avesse avuto il cuore e la mente di una donna. Ma zia Polly, che cos'hai? La zia si era alzata in fretta ed era andata alla finestra. Oh, niente, tesoro, cambio solo la posizione di questo prisma, disse zia Polly, il cui volto era in fiamme. Capitolo 28. Il gioco. E i giocatori. Fu poco dopo la seconda visita di John Pendleton che un pomeriggio si presentò Millie Snow. Non era mai stata a Harrington prima di allora e quando la signorina Polly entrò nella stanza, la ragazza arrossì e si mostrò molto impacciata. Sono venuta per avere notizie della bambina, disse inceppandosi sulle parole. Sei molto gentile. Purtroppo non c'è niente di nuovo. Come sta la mamma? Chiese la signorina Polly con aria stanca. È proprio per questo che sono venuta, cioè per chiederle di dire qualcosa a Pollyanna, sbottò tutto d'un fiato la ragazza. Noi, vede, noi pensiamo che sia davvero terribile che la povera piccola non possa più camminare, soprattutto dopo quello che ha fatto per noi e per la mamma, insegnandole a fare il gioco e tutto il resto. E quando abbiamo saputo che ora non le riesce più di giocarlo, poverina, a dire il vero non vedo come potrebbe nelle sue condizioni, ma quando pensiamo a tutto quello che ci diceva, ci siamo rese conto che se Pollyanna soltanto sapesse quanto è riuscita a ottenere con noi, potrebbe aiutarla il pensiero che la stessa cosa, cioè il gioco, potrebbe fare del bene anche a lei, almeno un po'. Millie a quel punto tacque senza fiato, aspettando che la signorina Polly dicesse qualcosa. La signorina Polly era rimasta seduta. L'aveva ascoltata con cortesia, ma dimostrando una certa perplessità, aveva afferrato non più della metà di quanto la ragazza aveva detto e ora pensava di aver sempre saputo che Millie Snow era un po' strana, ma non l'aveva mai sfiorata l'idea che fosse un poco matta. In nessun altro modo, infatti, avrebbe potuto spiegare quel fiume di parole senza senso. E non appena ci fu una pausa in quel discorso affannato, la signorina Polly ne approfittò per dire con calma: Credo Credo di non capire, Millie, cosa desidera che dica mia nipote. Ecco, vede, vorrei che le dicesse, rispose la ragazza sempre eccitata, vorrei che le facesse capire quello che ha fatto per noi. Certe cose, per la verità, le sa già, perché è stata da noi anche dopo che la mamma è cambiata, ma ugualmente voglio che sappia quanto è cambiata. E anche io, sì, anche io sono cambiata. Ho cercato di imparare il gioco, almeno un po'. La signorina Polly aggrottò la fronte. Avrebbe voluto chiedere a Millie in che cosa consisteva questo gioco, ma la ragazza non gliene dette il tempo perché riprese a parlare nello stesso modo farraginoso di prima. Vede, prima alla mamma non andava mai bene niente, voleva sempre qualcosa di diverso da quello che aveva e in effetti, date le circostanze, la si poteva anche capire, ma ora è tutta un'altra cosa. Permette che le tende vengano spostate, che entri luce nella stanza e ha una quantità di interessi. Si preoccupa del proprio aspetto, della camicia da notte e di tutto il resto. Si è messa a lavorare a maglia. Fa golfini e copertine per i bambini che ne hanno bisogno e com'è felice di poterlo fare. Tutto questo è merito di Pollyanna perché ha fatto capire alla mamma che dopo tutto aveva ancora l'uso delle mani e delle braccia. E ciò l'ha spinta a chiedersi perché non se ne serviva. Ed è quello che ha fatto, vede, lavorando a maglia. E lei non può immaginare quanto anche la sua stanza sia diversa adesso, rallegrata da tutte quelle decorazioni rosse, blu e gialle, e anche dai prismi alle finestre che Pollyanna le ha portato. Capisce? Ora si prova tutta un'altra sensazione a entrare nella sua stanza. Una volta invece era orribile, tutta scura e cupa, con la mamma così infelice, scostante. Noi vorremmo tanto che lei dicesse a Pollyanna quanto le siamo grate per questo cambiamento. Le dica anche, per favore, che siamo tanto, tanto felici di averla conosciuta e che forse la farebbe un po' contenta il pensiero di aver conosciuto noi. E questo è tutto, concluse Millie con un sospiro alzandosi in fretta dalla sedia. Glielo dirà? Certo, lo farò. Disse piano la signorina Polly, chiedendosi se mai sarebbe riuscita a ricordare un discorso così complicato. Le visite di John Pendleton e di Millie Snow furono soltanto le prime di una serie innumerevole, e ogni volta c'erano lunghi messaggi da trasmettere, messaggi così singolari che non mancavano di disorientare sempre più la signorina Polly. Un altro giorno si presentò una vedova, la piccola signora Benton. La signorina Polly la conosceva bene, anche se tra loro non c'era mai stato uno scambio di visite, ma sapeva che aveva la fama di essere la persona più triste della città e che vestiva sempre di nero. Oggi invece la signora Benton portava annodata al collo una piccola sciarpa color lilla, pur avendo gli occhi umidi di lacrime, espresse tutto il suo dolore e orrore per l'incidente e quindi chiese con esitazione se poteva vedere Pollyanna. La signorina Polly scosse la testa. Mi dispiace, non vede ancora nessuno per ora. Forse più avanti, chissà. La signora Benton si asciugò gli occhi, si alzò in piedi e stava per andarsene, ma dopo qualche istante disse con una certa concitazione: Signorina Harrington, le dispiacerebbe farle avere un messaggio da parte mia? Ma certo, signora Benton, sarò lieta di farlo. La piccola donna esitò un poco, poi continuò. Le dica, per favore, che ho messo questa, disse toccandosi la sciarpa lilla che aveva al collo. Poi, di fronte alla malcelata sorpresa della signorina Polly, aggiunse: La piccola, beh, ha cercato per tanto tempo di convincermi a indossare qualcosa di colorato, così ho pensato fosse contenta di sapere che avevo vinto la mia riluttanza, avevo ripreso un po'. Mi diceva che Freddy sarebbe stato contento se lo avessi fatto. Vede, Freddy è tutto per me adesso. Tutti gli altri se ne sono. A quel punto la signora Benton scosse il capo e si diresse verso la porta. Se vorrà anche solo farne cenno, Pollyanna capirà. E la porta si chiuse dietro di lei. Poco più tardi, quello stesso giorno, venne un'altra vedova. Almeno a giudicare dai suoi abiti completamente a lutto, la signorina Polly non la conosceva affatto e si chiedeva come Pollyanna avesse potuto fare la sua conoscenza. La signora si presentò come Tarbell. Lei non mi conosce, disse subito, ma la sua nipotina sa chi sono. Ho soggiornato tutta l'estate in albergo e per ragioni di salute dovevo fare una passeggiata ogni giorno. È stato durante una di quelle passeggiate che ho incontrato Pollyanna. È una bambina così cara. Vorrei tanto che capisse quello che è stata per me. Quando sono arrivata a Beldingsville ero molto depressa. Il suo volto luminoso e i suoi modi cordiali e vivaci mi ricordavano la mia bambina che ho perso anni fa. Sono stata molto colpita nell'apprendere dell'incidente e del fatto che la povera piccola non potrà più camminare. Quando poi ho saputo che la sua sofferenza maggiore era dovuta all'incapacità di essere ancora contenta, beh, allora non ho potuto fare a meno di venire. È molto gentile da parte sua, mormorò la signorina Polly. Oh, sono io che le devo chiedere una cortesia ora, disse la signora. Desidero che le porti un messaggio da parte mia, lo farà? Certamente. Le dica semplicemente allora che la signora Tarbell adesso è contenta. Mi rendo conto che un messaggio del genere può sembrare strano e che lei non potrà capire, ma mi perdoni, preferirei non aggiungere altro. Un'espressione triste apparve sul volto della donna e dai suoi occhi scomparve la serenità di qualche istante prima. Sua nipote capirà quello che intendo dire. Mi sentivo in dovere di farglielo sapere. La ringrazio e mi scusi ancora se questa mia visita potrà sembrarle scortese, disse andandosene. A quel punto, del tutto sconcertata, la signorina Polly salì in fretta in camera di Pollyanna. Pollyanna, conosce una certa signora Tarbell? Sì, certo, le sono anche affezionata. È ammalata e terribilmente sola, vive in albergo e fa sempre lunghe passeggiate. Le facciamo insieme, voglio dire, le facevamo. La voce di Pollyanna ebbe un cedimento e due grosse lacrime le scesero lungo le guance. La signorina Polly si affrettò a schiarirsi la gola. Sai, tesoro, è appena stata qui. Ha lasciato un messaggio per te. Ha detto di dirti che la signora Tarbell adesso è contenta. Ma no, non ha voluto dirmi di più. Pollyanna fece un debole sorriso. Ti ha detto così, davvero? Oh, sono tanto contenta. Insomma, Pollyanna, che cosa intendeva dire? Ma è il gioco e... Pollyanna si fermò di colpo con una mano sulla bocca. Quale gioco? No, né, oh, assolutamente niente, zia Polly, ossia, non posso parlarne a meno di non dire altre cose di cui non devo parlare. La signorina Polly aveva altre domande da farle, ma l'evidente imbarazzo della bambina le bloccò le parole che aveva sulla punta della lingua. Non molto tempo dopo la visita della signora Tarbell, tuttavia, se ne ripresentò l'occasione. Arrivò a Harrington una giovane donna con guance truccate vistosamente e con i capelli color della stoppa. Era vestita in modo appariscente, con i tacchi alti e qualche gioiello di poco prezzo. Una donna la cui reputazione non era sconosciuta alla signorina Polly e la cui presenza in casa sua la sorprendeva, oltre a non piacerle affatto. La signorina Polly non le tese la mano, anzi addirittura si scansò mentre entrava nella stanza dove la donna era stata fatta accomodare. La giovane si alzò subito, aveva gli occhi rossi come se avesse pianto e con molta titubanza chiese se poteva vedere per un momento la bambina. La signorina Polly rispose che non era possibile. Da principio parlò in tono molto duro, poi l'espressione supplicante negli occhi della donna le fece soggiungere con un po' più di cortesia che a nessuno era permesso di vederla. La giovane esitò, poi cominciò a parlare in modo alquanto brusco e con un'espressione di sfida sul volto. Mi chiamo Payson, penso che abbia sentito parlare di me, come la maggior parte della gente per bene in città, e probabilmente tante cose che ha udito sul mio conto non sono vere. Ma questo non ha importanza. È per la piccola che sono venuta. Ho saputo che ha avuto un incidente e la cosa mi ha sconvolta. La settimana scorsa poi sono venuta a sapere che non potrà più camminare e... Le avrei dato le mie gambe se avessi potuto. Correndo in giro come era solita, in una sola ora faceva tanto di quel bene quanto io non riuscirei a fare in 10 anni. Ma lasciamo perdere. Sono giunta alla conclusione che le cose non sono date a chi ne fa l'uso migliore. Fece una pausa e si schiarì la gola, ma quando riprese a parlare aveva ancora la voce rauca. Lei forse non lo sa, ma io conosco bene questa sua nipotina. Noi abitiamo sulla strada che porta a Pendleton Hill e la bambina passava spesso di lì, ma non ci passava soltanto. Pollyanna entrava da noi, giocava con i bambini, parlava con me e con mio marito quando c'era. Le piaceva stare con noi. Penso non sapesse che quelli del suo ambiente di solito non fanno visita a gente come noi e probabilmente, signora Harrington, se lo facessero non ci sarebbero al mondo persone come me, aggiunse con improvvisa asprezza nella voce. Comunque sia, la piccola Pollyanna veniva da noi e senza averne alcun danno ci fece del bene, molto bene. Quanto bene ci abbia fatto lei non lo sa e spero che non lo venga a sapere, perché se così fosse dovrebbe apprendere anche tante altre cose che è meglio non sappia. Ma le cose stanno così. È stato un anno difficile per noi questo, per più di un motivo. Siamo stati terribilmente scoraggiati, mio marito e io, e pronti a qualsiasi cosa. Avevamo deciso di divorziare, di lasciare i bambini. Beh, non sapevamo che cosa avremmo fatto di loro. Poi abbiamo udito dell'incidente di Pollyanna e delle terribili conseguenze. Allora ci è venuto in mente quando passava da noi ed entrava. O si sedeva sulla soglia a giocare con i bambini e scherzava, rideva, insomma, era sempre contenta, era sempre contenta per qualche cosa. E poi un giorno ce ne spiegò il motivo, ci disse del gioco e cercò di convincerci a giocarlo anche noi. E adesso abbiamo sentito dire che si tormenta perché è lei che non riesce più a farlo e che non c'è nulla che possa farla contenta. È per questo che sono venuta oggi, per dirle che forse potrà essere un po' contenta per noi, in quanto abbiamo deciso di non separarci più e di provare a fare il gioco. So che ne sarà contenta perché era sempre molto triste per le cose che dicevamo qualche volta. Come il gioco ci potrà aiutare, non posso proprio dirlo ancora, ma chissà, forse funzionerà. Comunque abbiamo deciso di provare perché lei lo desiderava tanto. Glielo dirà? Sì, glielo dirò, promise la signorina Polly con un filo di voce. Poi, spinta da un impulso improvviso, si diresse decisa verso la donna e le tese la mano. E grazie per essere venuta, signora Payson, disse con semplicità. Lo sguardo di sfida era scomparso dal volto della signora Payson. Le labbra le tremavano al punto che balbettò appena un saluto, afferrando la mano che le era stata tesa, poi si voltò e corse via. La porta si era appena chiusa dietro di lei, che la signorina Polly era già in cucina in cerca di Nancy. Nancy! La voce della signorina Polly era dura e decisa. Tutta quella serie di sconcertanti visite degli ultimi giorni, che avevano avuto il loro culmine nella sconvolgente visita del pomeriggio, avevano teso i suoi nervi a tal punto che stavano per saltare. Da quando era accaduto l'incidente a Pollyanna, Nancy non l'aveva mai sentita parlare con quel tono. Nancy, mi vuoi dire in che cosa consiste questo assurdo gioco di cui parla tutta la città? E che cosa c'entra mia nipote? Perché tutti, da Milly Snow alla signora Payson, le mandano a dire che lo giocano? Da quanto mi è dato constatare, mezza città si mette sciarpe colorate al collo, smette di litigare in famiglia e ha imparato ad accettare cose che prima non riusciva a sopportare. Tutto ciò grazie a Pollyanna. Ho cercato di saperne qualcosa da lei, ma non sono riuscita a cavarne nulla e naturalmente ora non voglio agitarla per nessun motivo, ma ho avuto l'impressione che anche tu fossi tra quelli che fanno questo benedetto gioco. Allora, vuoi dirmi che cos'ha questa storia? Con grande sorpresa della signorina Polly, la ragazza scoppiò in lacrime. Significa che da quando è arrivata in giugno, quell'angelo di bambina ha insegnato a tutta la città come si poteva essere contenti. E adesso le parti si sono invertite e sono gli altri che cercano a loro volta di farla contenta. Contenta? Contenta di cosa? Contenta e basta. È il gioco. La signorina Polly a quel punto perse proprio la pazienza. Anche tu con questa storia! Si può sapere di che gioco si tratta? Nancy alzò il capo e guardò la signorina Polly dritta negli occhi. Adesso glielo spiego io, signora. Si tratta del gioco che il padre di Pollyanna le ha insegnato a giocare. Una volta in un pacco giunto alla missione c'era un paio di stampelle, mentre Pollyanna si aspettava una bambola e quindi si è messa a piangere, come avrebbe fatto qualunque bambina, è naturale. Suo padre allora le disse che non c'era mai nulla di cui non ci si potesse rallegrare e che poteva essere contenta anche per un paio di stampelle. Contenta per delle stampelle? La signorina Polly quasi gridò quelle parole, pensando alle povere piccole gambe che stavano inerti in quel letto di sopra. Sì, signorina, è quello che le avevo detto anch'io, e Pollyanna mi ha raccontato che fu quello che lei stessa rispose a suo padre, ma lui le spiegò che poteva essere contenta proprio perché non aveva bisogno di stampelle. Oh! Si lasciò sfuggire la signorina Polly e mi disse che da quel momento suo padre l'abituò a fare il gioco, cercare sempre qualcosa di positivo in tutto quello che le capitava. Ha poi aggiunto che chiunque poteva farlo. E per quello che riguardava lei, non aveva più pensato alla bambola perché era tanto contenta di non aver bisogno delle stampelle. Pollyanna e suo padre lo chiamavano il gioco della contentezza. Ecco tutto, signorina. Pollyanna non ha più smesso di giocarlo. Ma come? disse la signorina Polly senza riuscire a continuare. E lei non può immaginare come funziona bene, signorina, riprese Nancy, mettendo nelle parole l'entusiasmo di Pollyanna. Se sapesse che cosa ha fatto in casa mia, mia madre e gli altri della famiglia. Pollyanna è venuta con me a trovarli più di una volta e anche a me ha insegnato a essere contenta di una quantità di cose, grandi e piccole, in modo che tutto mi sia più facile. Per esempio, a me non piaceva molto chiamarmi Nancy, ma lei mi ha fatto notare che sarebbe stato molto peggio se mi avessero chiamata Hepzibah, come una signora che conosceva lei. E poi c'era anche la faccenda del lunedì mattina che io non sopportavo proprio, ma Pollyanna è riuscita a far sì che tutti i lunedì mattina fossi contenta. Contenta per il lunedì mattina? Nancy ride. So che le posso sembrare suonata, signorina, ma lasci che le spieghi. Pollyanna aveva scoperto che odiavo il lunedì mattina e proprio lunedì mattina penso bene di venirmi a dire: Beh, Nancy, dovresti essere molto più contenta oggi di tutti gli altri giorni, perché hai davanti un'intera settimana prima che ritorni un altro lunedì. E mi venga un accidente, se da allora non ci ho pensato ogni lunedì mattina e ho funzionato. Mi veniva da ridere ogni volta che ci pensavo e ridere aiuta, e tanto anche. Ma perché? Perché non mi ha mai parlato di questo gioco? Domandò la signorina Polly mostrando un certo disagio. Perché ne ha fatto un mistero ogni volta che cercavo di farle qualche domanda? Nancy esitò. Chiedo scusa, signorina, ma lei le aveva proibito di parlare di suo padre e così non poteva spiegarle di che cosa si trattava dal momento che quello, capisce, era il gioco di suo padre. La signorina Polly si morse le labbra. È a lei che avrebbe voluto parlarne per prima, continuò Nancy, sempre più a disagio. Desiderava tanto poterlo giocare con qualcuno, capisce? Per questo ho cominciato io, perché avesse qualcuno con cui fare il gioco. E gli altri? Chiese la signorina Polly con voce rotta. Oh, adesso quasi tutti conoscono il gioco, almeno a giudicare da ciò che sento in giro. Pollyanna per prima ne ha parlato con molte persone e queste a loro volta ne hanno parlato ad altre. Così vanno le cose. Basta incominciare. Pollyanna era sempre così sorridente e cordiale e così semplicemente contenta che non poteva non convincere tutti. E adesso, da quando si è fatta male, tutti sono costernati. Specialmente da quando hanno saputo che lei non riesce più a trovare qualcosa per cui essere contenta, ed è per questo che vengono a dirle quanto sono cambiati per merito suo, perché sperano in questo modo di aiutarla almeno un po'. Vede, Pollyanna ha sempre desiderato che tutti facessero quel gioco. Beh, so di qualcun altro che ci giocherà d'ora in poi, disse con un tremito nella voce la signorina Polly, dirigendosi alla porta e lasciando in tutta fretta la cucina. Nancy la seguì con lo sguardo come inebetita. Da questo momento non mi stupirò più di nulla, borbottò fra sé. D'ora in poi posso credere a qualunque cosa, qualunque cosa. Un po' più tardi, uscita l'infermiera, la signorina Polly e Pollyanna rimasero sole nella stanza. Hai avuto un'altra visita oggi, disse la signorina Polly, cercando di dare un tono naturale alla sua voce. Ti ricordi della signora Payson? La signora Payson? Ma certo che me la ricordo. Abita sulla strada per andare a Pendleton Hill e ha una deliziosa bambina di appena 3 anni e un ragazzino di 5. Lei è molto gentile, anche suo marito, solo che a volte sembra che non lo sappiano. Ogni tanto litigano, voglio dire, non vanno molto d'accordo. Sono anche molto poveri e non ricevono pacchi perché lui non è un pastore come, insomma, non lo è. Non lo è. Un leggero rossore apparve sulle guance di Pollyanna e contemporaneamente anche su quelle della zia, ma assai più evidente. Anche se sono poveri, lei a volte ha dei bei vestiti e tanti anelli e collane, lei però dice che ha un anello di troppo e che lo butterà via in cambio del divorzio. Che cos'è il divorzio, zia Polly? Temo che sia una cosa davvero brutta, perché la signora Payson non aveva un'aria molto felice quando ne parlava. Diceva anche che se otteneva il divorzio non avrebbe più abitato lì, che il signor Payson se ne sarebbe andato lontano e forse anche i bambini. Ma penso che dovrebbe tenersi l'anello, anche se ne ha tanti. Tu che ne dici, zia Polly? Ma non se ne andranno via, mia cara, disse in fretta la signorina Polly. Hanno deciso di restare insieme là dove sono. Oh, che bello! Allora saranno ancora là quando passerò per andare da... Oh, povera me! Disse Pollyanna improvvisamente disperata. Ma perché, zia Polly, non riesco a ricordare che le mie gambe saranno così per sempre e che non andrò più dal signor Pendleton? Su, Su, non fare così, disse la zia con voce strozzata. Forse potrai andarci in calesse qualche volta ancora. Sta a sentire piuttosto. Non ti ho ancora raccontato tutto quello che la signora Payson ha detto. Mi ha raccomandato di farti sapere che resteranno tutti insieme e che cercheranno di fare il gioco come volevi tu. Pollyanna sorrise tra le lacrime. Davvero? Ha detto proprio così? Ah, come sono contenta! Per questo è venuta a dirmelo, per farti contenta, Pollyanna. Pollyanna guardò la zia. Ma zia Polly, tu parli come se sapessi. Forse zia anche tu conosci il gioco? Sì, mia cara. La signorina Polly fece il massimo sforzo perché la sua voce suonasse il più naturale possibile. Me ne ha parlato Nancy. Trovo che è un gran bel gioco e voglio cercare di farlo insieme con te. Oh, zia Polly, tu! Come sono contenta! Per tanto tempo ho sperato di giocare con te, solo con te. La signorina Polly fece un profondo respiro. Le riusciva anche più difficile adesso parlare con voce ferma, ma non volle darsi per vinta. Sì, tesoro, e ci sono anche tutti gli altri. Sembra che la città intera sia impegnata a fare il gioco, perfino il pastore Ford. L'ho incontrato questa mattina e mi ha detto di farti sapere che appena avrebbe avuto il permesso di vederti, ti avrebbe fatto sapere che quelle 800 parole di gioia di cui gli avevi parlato non hanno più smesso di renderlo contento. Come vedi, mia cara. Sei stata tu a fare questo. Un'intera città farà il gioco ed è incredibilmente più felice. E tutto perché una ragazzina ha insegnato alla gente un nuovo gioco e come giocarlo. Pollyanna sorrise. Poi improvvisamente il suo volto si fece radioso. Ecco, zia Polly, c'è qualcosa di cui posso essere contenta dopo tutto. Sono contenta di aver avuto le gambe, altrimenti non avrei potuto fare niente. Di tutto ciò.